from the by lanes of Ontario East. Yo, yo, yo. Behold, Chuck D with GMC and Wild Wild Women. With my girlfriends, it's a new day. Ask me how I'm doing, I say okay. I'm doing okay, doing okay. I'm doing okay, doing okay. I'm at my girlfriend in a hotel. She looks sad, so I asked, are you okay? She said, sit your ass down, I wanna tell you some. New day, same bullshit. Where you coming from? Your eyes looking like the ball's popping. Calm yourself, bro, I was just walking. We jump when they say crisscross your legs. Calling karma a bitch, cause she made you beg. I'm just traveling, rolling, growing. I looked at the mirror, caught the drawer drooling. Damn, wait a minute, what the hell you doing? I got booty, but this ride ain't amusement. End of the date, now it's time for the bill. Pockets full of cash and looks that kill. Girl, I'm sure you split that shit. Wait, did the waiter just ask him my pin? Okay. With my girlfriends, it's a new day. Ask me. 27 maggio, ore 19.02 minuti, sta per iniziare sulle 87.9 modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa una nuova puntata di Likewise. Ask me how I'm doing, I say okay. I'm doing okay, doing okay. I'm doing okay, doing okay. Donna Sonica e Pinco e Ellie Cottino oggi qui in studio per la 113esima puntata di Likewise. संगठन में हमारी इतनी शक्ति है कि हमसे अब तुम्हारी फटती है तेरे क्यों मुन्नवा जाने दे चुके ना मोने न्यान भीरना सुपरा नम्बरा In the cusp of 2022 blossoms a feminine revolution spreading positivity and light every day a woman's day every day a new fight but we play and we play we're doing okay. Doing ok, la nostra sigla DMC Wild Wild Women e insomma sopravvissute alla festa della radio dei 48 anni di Radio Onda Rossa. Anche tu sei superstite? Io totalmente superstite, ma bene, cioè nel senso io sto bene, non... voi state peggio secondo me. Ellie Cottino era diciamo una delle artiste che si sono esibite durante la festa di che c'è stata, il concerto che c'è stato sabato all'ex SNIA e insomma è stata una bellissima atmosfera, hanno saltato tutte sotto il palco, sono partiti canti, cori, cori e insomma, tantissimi cori. Com'è stata questa partecipazione, insomma, la tua prima volta a Radio Onda Rossa? Meravigliosa, cioè io sono ancora i brividi, sto ancora vivendo di tutte le emozioni che ho provato, insomma, al live, quindi sono felicissima, cioè io mi sono divertita e basta, per quello che dicevo, cioè nel senso io non ho fatto niente di, insomma, sbattoso, io sono arrivata, mi sono divertita, mi sono presa le coccole, ho suonato, abbiamo fatto i cori, abbiamo lottato tutte insieme sul palco e poi dopo... Mi sono presa un sacco di amore, un sacco di coccole, quindi io sto benissimo. Beh, mi sembra un buon risultato, insomma. Sì, no, è stato bellissimo, poi proprio casa. Ma poi quanta gente c'era, vogliamo parlarne? Devo dire che insomma che... evidentemente questo hip hop femminista, transfemminista, queer funziona piuttosto bene, direi. Possiamo dirlo che adesso siamo una scena, cioè che l'hip hop transfemminista è una cosa in sé, perché fino a qualche anno fa non lo era. Secondo me è un tema questa cosa. No, diciamolo, cioè lo diciamolo, dire, cioè adesso esiste l'hip hop transfemminista, non ce lo toglie più nessuno, ci siamo tante adesso, non siamo più poche a lottare, quindi sono veramente fiera di questa cosa. E la festa della radio, insomma, che comunque ha un significato più ampio, ha voluto in qualche modo creare un legame anche con quelle che sono lotte comuni evidentemente e con delle artiste che comunque noi seguiamo e ha funzionato nel senso che la risposta del pubblico è stata molto bella, quindi evidentemente esiste una scena e serve, cavoli. Veramente è stato bellissimo, bellissimo, super grata. Siamo felici anche di averti qui. Noi abbiamo una scaletta che abbiamo in canna da tipo settimane da tre settimane, forse anche di più. Sì, perché poi nelle varie settimane che sono venute una dietro l'altra, abbiamo fatto vari cambi. Uno dei cambi è stato anche la presentazione della lineup, quindi le interviste che abbiamo fatto con voi, e quindi abbiamo un po' di pezzi da far ascoltare che insomma avevamo in canna fondamentalmente. Un po' tanti, parleremo poco e ne metteremo molti, speriamo. E quindi se Eli ci vuole accompagnare, magari non è proprio, diciamo, non si inserisce nella scena hip hop, quella che sarà la selezione di oggi, però insomma penso che per fare hip hop devi ascoltare tanta roba. Io ascolto quindi tutto, mi piace tutto, quindi sì. Intanto ci ascoltiamo la Niña, Figlia della Tempesta. Nuanda fa paura, 38 è mazzata, a botte manganiella, musica è cagnata. Battimmo che tambura, mo facimmo la sentì, chi non voleva sentire, mo è ricchiata rapì. Sto filmando niente, mo va tutto cosa, mo va tutto cosa. E te non arraggio, che non arrabosa, che non arrabosa. Ha dato la vita, ce l'ha nell'uomo, non voglio ne voce. Vestuta puttana, e vestuta la sposa. Femme ne niente, femme ne niente, femme ne niente. La Niña, Figlia della Tempesta, tratto dall'album Foresta, uscito per una major che non nomineremo come nostro solito. Finalmente la passiamo, nel senso che ci è capitato spesso di sentire, insomma, di incontrare voi che ascoltate questo programma, che ci dicevate: ma scusate, ma la Niña, ma non mettete la Niña, non mettete la Niña. L'abbiamo messa la Niña. L'abbiamo messa. Ci abbiamo messo un po', ma l'abbiamo messa. Intanto, appunto, la Niña è il progetto musicale della musicista, compositrice e cantante Carola Moccia. Questo suo secondo album, devo dire, in un'intervista lei racconta che i pezzi che compongono quest'album erano pensati come pezzi singoli, aveva pensato di farli uscire, sì, come singoli, poi alla fine è venuto fuori insomma un album. Che ti piace a te, Pinclo? Che ne dici? Non mi dispiace, non mi dispiace. Ok. Mi dispiace. Stavamo parlando prima, insomma, con Eli rispetto all'album, rispetto alla performance, rispetto alla, diciamo, alla musicista che è dietro questo progetto. Io devo dire, è tutto fatto molto bene. Forse troppo bene. Esatto. È il problema sempre delle major discografiche. So. Sono contenta rispetto a prima, che insomma, rispetto al primo album, che in questo secondo la Niña affondi di più le mani nelle radici, no, della sua terra, della mia terra anche, insomma, e comunque riprenda tutta una serie di sonorità che entrano benissimo in qualche modo, no? Riescono a miscelarsi benissimo anche con delle interpretazioni che sono un po' più hip hop in maniera più ampia, diciamo, rispetto a quello che fa lei. Però insomma è così un po', e i testi sono bellissimi, sono potentissimi, però forse un po' troppo confezionato. Tu che cosa ne pensi da artista che poi spesso si deve confrontare, no, con le produzioni, e quindi con il tentativo sempre un po' di plasmare quello che uno poi ha dentro, che vorrebbe fare? Allora, io, come ti ho detto prima, secondo me è appunto un po' il filtro poi del mainstream, cioè della casa discografica grossa, che tende a ripulire un po' tutto, quindi ti prende il tuo messaggio, lo mette nel suo filtro e ne fa uscire una cosa perfetta, patinata, pulita, però non sempre poi rende la stessa autenticità. Quindi vabbè, per ora io non ho di questi problemi perché sono indipendente, molto fiera quindi nel senso, però appunto ho anche più libertà, quindi da un lato, cioè io quando vado in studio so che posso fare veramente tutto quello che voglio, nessuno mi fermerà, nessuno mi dirà niente, e quindi questo mi dà una libertà diversa, secondo me. Poi ovviamente non lo so, non vedremo, però sì, secondo me è un po' questa roba qui, cioè ti toglie un po' quel grezzo che, per dire, a me piace, a me emoziona un po' sentire un po' di grezzo nel, anche in qualcosa di pulito e di fatto bene, cioè non vuol dire che poi i suoni non debbano essere belli eccetera, no? È l'impatto, il modo in cui arriva, l'impatto, sì, che comunque è forte, eh? Assolutamente, cioè, nonostante anche perché sia molto una produzione molto curata e molto pulita, in realtà si sente molto che c'è una forza sonora di espressione, anche di contenuto, quindi infatti abbandona la chiacchieravamo anche di ritorno all'indipendente, chiacchieravamo anche di questo, siccome la Nigna è in tour e comunque in giro a suonare questo album e altri suoi pezzi, noi vi invitiamo come sempre intanto ad andare a vedere le artiste live, sempre, perché quello è il modo in cui veramente bisogna ascoltare la musica, e appunto a questo punto ancora più curiose di verificare magari dal vivo quella parte un po' più grezza, più istintiva, più verace viene fuori, e quindi ci potrebbe sorprendere, sì, ancora. Cioè io sono quasi sicura che al 100% se la vede live tutta quella roba lì social non viene meno, e quindi si sentirebbe veramente quell'aspetto lì. È una persona che sicuramente non ha di questi problemi rispetto al, diciamo, al raccontare se stesso nella maniera più vera, aperta e come posso dire, trasparente possibile, e Kay Tempest che torna da queste parti. Know Yourself. Time coming to right now, pipe down, lifetime looking for things I thought I'd found already, falling to the floor like I'm alright, I'm steady, set myself back so I can tell me, 20 years deep in the rhymes and beats, and I'm still so far from finding peace, every line is a ladder I can climb through time, and I walk straight face through these winding streets, I eat the bread of rhythm, I drink the milk of rhyme, I've been carrying a bag of shame that's bigger than me, dragging it behind me, up and in the staircase until the day I realize, this doesn't mean what I think it does, I don't need to carry this forever, I left it in the clearing by the fire pit and ran back to the child I was, looking for an elder, I saw myself there, I took myself by the hand. When I was young I sought help from my older self, I came into my head, I told me know yourself. When I was young I sought help from my older self, I came into my head, I told me know yourself. I was 17, heaven seemed close enough to touch, I had never been happier, chest against the barrier, watching Wu-Tang, my own character starting to bloom, I was learning how to capture a room in two phrases, 20 years deep in the rhymes and beats, close my eyes and speak down a wiser time, I go back to the child I was, when I put myself on the line, I had to beg for the mic, I had to deal with the ignorance, I had to get better, I wanted bigger things, well these days, those days, they are far away, try and catch them in my sights, but they start to fade, now I sit amongst crate loads of rhyme books, and I think about the days that the time took, I thank the little me that put the work in, like could you picture me when you were spitting 16s, surfing the top deck, penning them bars, underage in the clubs, taking charge of the mic, precocious little nothing with the world in your sights, I am on it now, I will work harder, this is peace to the kid I came after, peace to the kid I came after, the words are the bridge between the present and the past, I know myself at last, when I was young I sought help from my older self, I came into my head, I told me know yourself. When I was young I sought help from my older self, I came into my head, I told me know yourself. Know yourself. Know yourself. Soon shout out, you were gonna find release. E questa era la voce, l'anima, le rime di Kay Tempest, Know Yourself. Diciamo che penso che sia, sarà, rappresenterà questo pezzo in qualche modo anche il lavoro di Self-Titled, che è l'album che uscirà sempre per la Island Records. Il prossimo, abbiamo una diatriba su questa cosa. Io so il 4 luglio giugno. E tu dici il 4 giugno. Va bene, ricontrolleremo. Forse perché voglia di sentirlo molto in fretta. Un lavoro molto interessante anche quello di, come dicevamo, esporsi, raccontare l'evoluzione personale, i cambiamenti personali all'interno di questo pezzo, diciamo, come posso dire, duettando in qualche modo con quella che era la sua voce, il suo spirito e le rime da cui prende spunto Kay Tempest per raccontare il suo self, quindi il se stesso di adesso. È veramente molto tanta roba, come posso dire? Molto, molto, anche il video è molto forte in questo. Lui stesso ha detto della canzone: adoro questa canzone, contiene un campionamento di un testo che ho scritto anni fa, dove il mio io giovane parla al suo io ancora più giovane, quindi diventa un dialogo tra sé nel tempo, in tempo reale, o forse posso dirlo in modo più semplice: quando ero giovane cercavo aiuto dal mio io futuro, sono entrato nella mia testa, mi sono detto conosciti. Che viene ad ottobre a Roma. Sì, in realtà diciamo fra un po' c'è l'uscita dell'album, ci sarà un lungo tour in tutta Europa e anche in Italia, quindi insomma sì, avrete occasione di vedere che i Tempest, che in generale da tanti anni, da quando ha cominciato a salire su un palco, è veramente sempre uno spettacolo andarlo a vedere. Ellie, frequenti, ti piace che i Tempest? Andiamo ad ottobre, vi prego, vengo anch'io, andiamo insieme. Andiamo assieme. Organizziamo, vengo a Roma. Andiamo assieme. Noi andammo a quello precedente. C'è una playlist del Best di Kay Tempest su le nostre varie diramazioni, se la cercate, non esatto. Vi diremo dove, però c'è. In ogni caso potete spulciare ondarossa.info, andare a cercare Likewise nel palinsesto, dove ci sono tutti i nostri podcast, le puntate che vi siete perse e anche insomma le artiste che abbiamo passato, e una di queste evidentemente è anche quella dedicata a diciamo alla musica, perché Kay Tempest passa da noi praticamente da sempre, quando abbiamo cominciato. Sono le 19:17, ascoltate Likewise, questa è Radio Onda Rossa in modulazione di frequenza a Roma. Ci potete ascoltare anche in DAB, ci potete ascoltare in DAB anche a Terni e a Perugia, ci potete ascoltare dallo streaming del sito ondarossa.info quando e dove volete. E potete ascoltare anche i podcast che trovate sul sito, e sul sito trovate, perché la festa è finita, il compleanno è passato, ma i regali non si rifiutano mai, e il radio abbonamento è ancora attivo per un altro mesetto. Chi non ha ancora fatto un regalo a Onda Rossa lo faccia, ne abbiamo bisogno, ci servono per pagare tutte le antenne che abbiamo in giro, tutte le bollette della luce che ci arrivano. Aiutateci, dateci una mano e cliccate sul banner che trovate sul sito. Andiamo, siamo già in ritardo, volevamo mettere 20 pezzi, ma siamo ancora al terzo pezzo. Vai. Torna da queste parti, lei si chiama Dara Dorian, Any Other World. Until you reach the heart. and the time to feel dead. Dig another world, dig another hole in your head. Dig until you die, dig until you restart. Any other world, any other hole in your head. Any other time, any other time to feel dead. Questo Any Other World, Dara Dorian, che ritorna dalle parti di Like Wise. Sai quando avevamo annunciato questo disco? No. Nella puntata 104, dicendo che sarebbe uscito la primavera dell'anno di quest'anno, perché era uscito prestissimo il singolo, uno dei singoli che non è quella canzone che abbiamo messo stasera. Angel Dara Dorian è sicuramente una beniamina di Like Wise. L'album si intitola Ready to Heaven ed è bellissimo, almeno è insomma, per me in ascolto continuo da quando è uscito, cioè il 9 maggio è uscito per la Fire Records, un'etichetta che ci piace tantissimo. Non vi diciamo nulla, andatevi a spulciare le puntate vecchie, come avete sentito insomma passa dalle nostre parti da un po', basta così, perché basta siamo così. In ritardo e abbiamo siamo un sacco ritardo, di pezzi sì, da... sì. Ma che cosa c'è nella tua nel tuo ascolto, insomma, non dico della settimana, di questo mese, Licottino, che sei qui con noi? Allora, io sono in fissa con la musica reggae e dancehall in questo periodo, cioè veramente mi sto infognando ancora di più, come se già non lo fossi. Vabbè, ultima, dico un brano o un artista? Che ne so, un album che sta passando a ripetizione, insomma, qualcosa che in allora, particolare sei in fissa. Sto overascoltando Protoge, stranamente, perché non succede mai. Big 45, okay, che è il suo ultimo singolo, che penso che stia preannunciando un album, spero, okay, ed è fichissimo, già una hit, cioè nel senso già tipo la sua terza canzone più ascoltata, ovviamente per ovvie ragioni, perché è veramente figa. Allora, io e Pinclo non abbiamo grande dimestichezza con reggae, no, vero Pinclo? No. Cioè passiamo di tutto qui, dal però jazz. Però reggae no. No, non ce l'abbiamo. Ci manca. Bisogna. Ci abbiamo la carta reggae, noi non ce l'abbiamo. No, sono ce l'abbiamo. Io la vostra carta reggae. Passaci gli artisti e noi ascoltiamo. Ascoltiamo e non abbiamo mai pregiudizi. Mai. Un po' sul reggae sì io. Vabbè, comunque lasciamo stare. Quarto pezzo di oggi, Grandma's House from the Gods. You're watching me from the dark. E questa era Grandma's House, una band che è passata già dalle nostre parti. Certo che è passata. Diciamo che ci ricorda che la scena di Bristol è viva e vegeta insieme a noi, anche rispetto, diciamo, ad altre sonorità, rispetto a quelle classiche della scena di Bristol, almeno quelle storiche della scena di Bristol. Questo pezzo è tratto dall'EP Anything For You, uscito l'11 aprile per la Duke's Box Records. Sono, e tra l'altro è prodotto da Scott Barnett, insomma un ingegnere del suono molto interessante che ha prodotto un sacco di cose che abbiamo anche ascoltato quest'anno. Sono, insomma, bei pezzi carichi come piace a noi. Sono in giro in Europa e le vedrete sicuramente in qualche festival se non ve le lasciate scappare. Stasera, per esempio, 27 maggio, se siete a Londra dalle parti di Angel, Grandma's House suonano con Jasmine Forti, che è un'altra artista che è passata da queste parti, insomma, quindi ci sarà sicuramente un bel live se siete da quelle parti. Mandateci, scendete e andate a sentire le Grandma's House. Vi ricordiamo che abbiamo un canale Telegram che è likewise_trix, un vuoto. E che potete scriverci una mail a likewise@ondarossa.info, che se ci volete chiamare allo 0649 1750, fino alle 20 ci trovate in diretta. E vi ricordiamo sempre di non chiamarci quando stiamo parlando, perché non vi possiamo rispondere. Vabbè, o se chiamate quando stiamo parlando vi risponderà la nostra ospite qui, che è Licottino. Se volete fare una domanda a Licottino potete farlo, esatto, sia in diretta che fuori onda. Quindi, fuori, insomma, onda. Mi sembra una buona occasione questa per chiamare. Assolutamente quando... sì, esatto. 19:30, questo è Likewise, pezzo numero 5 della scaletta di questa sera. Ci spostiamo in tutt'altra parte del mondo, andiamo nelle Ande peruviane con Renata Flores e Tijeras 2. Dos. Yo voy pini guagua, burjo piso, hui aswan calpa, hui mi tijerasta. Uyarini, campana, kuna mandaza, papajarin, guajacta, carca, cuy, mi zapa maje. Yo voy chicta, chicar humana, piepas, urgi, a ti canchu. Calpa, calpa, chajina, gulmamu. Chuya, ya cogí, narima, su tuchu. Mana, piepas, iwan, chimaru, anai. Una, sankuta, ja. Tijeras, guajap, tija, yachka. Tijeras, no cap, tija, yachka. Tijeras, no cap, tija, yachka. Tijeras, no cap, tija, yachka. Kamis que si mi ya manaja capaz ni ilae. Si mi kunari marjan, shumata tajima tapaz ni suman. China, Azka, Toja, Kunapa, Hayampi, Amajo, Techo, Astawa, Munaniwan, Japajuan, Ginas, Pafaki, Nireya, Kuge, Ewan. Ahí su juta, retiros, Panku, Pakarunku. Cosa, Ancha, Ayin, Kuskam, Antachin, Kuskam, Kachkanki. Mai pitaj causa, mai pitaj cuyacuy, mama pa cuya ninja, reloj manta, aswanchan y yuj, diamante yuj pachamanta, achka quilates, jori yuj mantapas, jori yuj mantapas, ni tiki jachan y yujchu. Calpa y jacaipa, chajina gulmamu, chuya ya cogí, narima su tuchu, mami pitas, iwan chumaru anay, una sankuta ja. Tijeras, wajap, tija, yachka. Tijeras, no cap, tija, yachka. Tijeras, no cap, tija, yachka. estética. Prefiero su pop y sintética. Prefiero su pop y sintética. Prefiero su pop y sintética. Prefiero su pop y sintética. Prefiero su pop y sintética. Renata Flores, Tijeras Dos, nuovo singolo per la giovane artista peruviana che scrive e canta in lingua quechua. Non siete voi che non capivate niente perché si era rotta la radio, ma è proprio lei che canta in una lingua che purtroppo non conosciamo, ma che funziona benissimo. Funziona benissimo. Vero? È bellissima. È bellissima lei, il suo modo di stare, il suo modo di porsi, questa voglia di tenere viva questa lingua, che è ovviamente una lingua antichissima, è la lingua degli Inca. Quindi è una lingua che ha più di 800 anni e che in realtà ha diverse problematiche in Perù, perché comunque è sempre vista in maniera, come un po' i dialetti da noi che sono visti come se li parli, allora quindi appartiene a una certa classe sociale, oppure insomma hai un certo passato, un certo presente, e quindi lei sta tirando fuori, si è messa proprio a studiare la lingua e le piace. È orgogliosa di cantare in quechua e di, insomma, allacciarsi a queste radici antichissime della sua terra e delle terre intorno, perché è una lingua parlata anche non solo nelle Ande peruviane, diciamo che passa come molte cose i confini che qualcuno invece ha deciso di mettere. Questa canzone in particolare, Renata racconta di averla scritta durante i moti e i violenti scontri del 2022-23 accaduti nel sud del Perù. Non stiamo qui a raccontarvi, non abbiamo abbastanza tempo, le questioni politiche, la caduta del presidente, la sua sostituzione, il suo, insomma, sono successe un sacco di cose che magari avete anche ascoltato, raccontate qui in questa radio. Quello che è successo in strada è che molte delle popolazioni, diciamo molte delle della parte della popolazione peruviana, in particolare quella indigena, che si sente sempre non rappresentata politicamente, è scesa in piazza, ha protestato, e queste proteste sono finite nel sangue e con tantissimi arresti. Quindi questa canzone racconta questo e racconta anche, insomma, la voglia, il desiderio da parte di Renata Flores di cantare, la necessità di dire basta, di scendere in piazza nuovamente e di cambiare le cose. E se vi è piaciuta potete ascoltare, non ci sono tantissime cose sue, ci sono diversi singoli in giro, ma c'è il suo debutto discografico comunque del 2021, Iskun. Cercate anche, appunto, lei che parla della sua terra. E Ellie, che cosa ci dici? Ti è piaciuto? È una queen, io amo. Io Slay adesso veramente me l'andrò ad ascoltare, è tipo fan numero uno di questa tipa. L'ho passata al compagno di mia mamma, che è colombiano e si gasa tantissimo per tutta questa musica, quindi... Perfetto. Subito passata. Quindi likewise lancia una nuova scoperta e una nuova influenza nelle prossime produzioni di Ellie Cottino, quindi ricordati di noi. Assolutamente. Prossimo pezzo, lo annunci tu, te lo ricordi? Hypersonic Super Asteroid, i Mandrake Anske Shake. emotions yet I cannot see. Utopian societies, utopian society, distant in my memory. I look back only to see utopian societies. They bloom and fade like hearing thunder me. Pursue they lie only just out of reach. Questo era lunghissimo. Avete viaggiato, dai, ditelo. Mandrake Handshake è il nome di questa, di questo collettivo più che band, perché sono un botto di persone che si una alternano. Una squadra di calcio. È una, cioè vanno dai 7 agli 11 elementi. Earth, Sized Worlds è il titolo del disco da cui abbiamo tratto questo bellissimo pezzo, molto psichedelico, molto viaggione e molto, dobbiamo dire, Stereolab, dai. Molto, cioè, Stereolab. C'è un'influenza proprio, si innesta, sono proprio i nipotini degli Stereolab, si può dire? Sì, no, si può dire, bello. Sì, si può dire, non sei l'unica che lo dice, l'ho letto anche in qualche altra intervista, non volevo adesso sminuire. Sminuire. No, cioè, no, nel senso che quindi sì, esatto, c'è un influenza che si sente molto, anche se ci buttano dentro poi questo jazz, free jazz progressivo. Loro si definiscono Flower Crowd Collective e ha detto tutto, secondo me si sentono molto hippie, però Crowd mi sembra, sì, cioè, diciamo, azzecca, sì, appropriatissimo, sì, molto... Hanno pubblicato già due EP e in realtà questo che esce per la T-Top Records è il loro album di debutto. No, sono 9 tracce, secondo me è un bel viaggione di quelli proprio super picky da mettere in macchina. Bravo, mentre, esatto, stai viaggiando tra un occhio a non distrarsi all'altro. Perché sono quelli che guidi, occhio a non distrarsi, andate piano, esatto, andate piano, e magari potete mettere in sottofondo mentre andate a vedere un concerto di Ellie Cottino, per esempio, che insomma adesso ci racconta un po' che cosa è in programma nelle prossime mesi, che l'estate è sempre un po' generalmente dedicata ai tour fondamentalmente, però non necessariamente, magari in realtà potrebbe anche essere al contrario, il momento in cui uno si ferma e scrive. Tu che stai facendo? Allora, no, in realtà io non mi fermo mai, per fortuna, molto grateful di questa cosa, e quindi suonerò tutta l'estate, andremo in un po' di posti, andiamo a Ravenna all'Underfest, poi saremo in Puglia invece ad agosto per Strada Chiusa, il festival che c'è, e poi vabbè, un po' di date che si stanno concretizzando. E intanto vabbè, domenica sono a Torino al Valentino, quindi per chiunque sia a Torino venite l'1 giugno domenica alle 19 al Valentino, all'imbarchino nel Pratone, quindi free. Sarà molto bello, ci siamo io e Sista Sofi, avremo 2 ore il palco, quindi mettiamo musica, cantiamo, ci saranno un sacco di ospiti, bella roba. Wow, mi sembra un'atmosfera sì, fichissima. Sarà fichissimo, non vedo l'ora. Poi basta, queste cose qua. Ovviamente scrivo anche, sono in produzione del nuovo disco che uscirà presumibilmente tra un anno. Sì, più o meno, in realtà uscirà della roba adesso a breve. Ma visto che qui a Roma hai una piccola casa, una piccola seconda casa che è Radio Onda Rossa, noi ci aspettiamo di avere le anteprime. Ovvio, cioè scontato. A parte che io sono ancora qui, voi non potete vedere, ma io sono qui in adorazione dell'accendino che mi ha dato Dona Sonica di Radio Onda Rossa. Io sono qui in adorazione, che lo tocco, lo guardo, felicissima. Quindi sì, lo potete trovare a Crack, perché ci sarà il banchetto della radio, quindi potete sempre sostenere la radio e comprarvi un accendino anche voi di Radio Onda Rossa, che ci aiuta sempre a pagare le bollette di qui sopra. Sono le 19:49, dall'altra parte del vetro sono arrivati Note Cose e no, senza e Note Cose e dai, non ce la posso fare, mi guarda, mi sta già odiando. No, non è vero, vabbè, note, ma cambiate nome cose, per favore, città senza sì, è il gioco delle cose che ti fa un po' allungare. Ma perché io da bambina ci giocavo sempre a Note Cose e città, e lo dicevi male, però. E lo dicevo male. Clot Golden. Get all tired up. I know that part of it's being E questa è Radio Onda Rossa, state ascoltando Likewise. Il pezzo che abbiamo appena passato è di una band scozzese, si chiama Cloth, e il pezzo Te l'ho cambiato sotto il naso si chiamava Stuck. Il singolo che abbiamo scelto per raccontarvi di Pink Silence, che è l'album, il terzo album di questo duo di gemelli, l'altro sì, scozzesi, Rachel and Paul Swinton. Devo dire rispetto agli altri album, intanto che è una produzione insomma bella ricca, nel senso che c'è un sacco di gente che produce, che lavora con altra gente che ci piace, Mogwai, Ellie Chant che ha fatto cose con PJ Harvey, Yard Act, insomma Adrian Hartley dei Potishead, insomma veramente tanta verdura al fuoco si può dire in questo album. E sicuramente rispetto ai precedenti c'è ancora più, come so dire, questo aspetto da cinematico, come si suol dire ultimamente, no? Un po' da film, da atmosfera più rarefatta rispetto a prima, che sì, a me piace molto, cioè, sì, molto intimo, sì, anche molto Mogwai se vogliamo, non a caso comunque esatto, escono di nuovo per la loro etichetta, la Rock Action Records. È vero, molto cinematografico, molto intimo, un disco molto bello, ve lo consigliamo come sempre. Sono le 19:54, andiamo subito al prossimo pezzo di Fetta di Fretta. Sì, perché loro le avevamo già messe, quindi se volete recuperare la bio andatele a cercare la puntata 56 che vi raccontiamo un po' chi erano i gemelli. La prossima si chiama Alina Orlova, Kashkur Otoli. Kashkur Otoli. Oh, E questa era la voce di Alina Orlova, Kashkurotoli era il titolo del singolo di questo album di cui io proverò a dire il nome. Si chiama Naktis Hatve Rukue. Ah, wow. Me la sono cercata la pronuncia. Te la sei cercata, eh? Cioè, che non giuro che sia quella precisa, però più o meno si dovrebbe leggere così. Alcuni pezzi in inglese anche, oltre diciamo alla lingua madre di questa artista lituana. Lei suona, oltre a comporre i pezzi, suona la chitarra e le tastiere e ha lavorato anche alla produzione dell'album, che è uscito il 17 aprile scorso per la Creative Industries. Chiudiamo? Chiudiamo, sì. Ellie, che ne pensi? Ti è piaciuto, visto che ti sei segnata? Sì, è veramente un viaggio. Poi appunto, come dicevate, il fatto che loro scrivano prima il testo e poi ci adattano la musica sopra, cioè per me che appunto sono la liricista, cioè è un viaggio assurdo. È una cosa folle. Si può fare in tanti si generi. Si può fare, wow, ok, proverò. Ultimo pezzo di questa scaletta, grazie Ellie che insomma sei venuta a stare con noi, poi grazie, ci salutiamo dopo e ci diamo appuntamento in futuro. L'ultimo pezzo di questa scaletta che abbiamo come al solito un po' dovuto rimaneggiare. Era lunga 24 pezzi, quindi 24 ore era. Poppy Daniels, Boundaries. Poppy Daniels, questo pezzo si chiamava Boundaries. Un applauso per il lavoro, l'ultimo lavoro di l'EP di debutto, cioè esatto. Debutto da solista, cioè da produzione e composizioni sue, perché esatto, che si chiama Keep On Going, è uscito il 25 aprile scorso per la Jazz Refreshed, etichetta appunto che si occupa di questo grandissimo grandissima fetta di musica che è il jazz a 360 gradi. Come stavamo dicendo nel fuori onda, Poppy Daniels è la trombettista in questo momento londinese, che collabora con moltissime delle artiste che ci piacciono, una fra tutte Arlo Parks, e insomma, quindi se volete ascoltare e andare a vedere qualcosa di quella scena, sicuramente lei è una da seguire. Assolutamente sì, sono 6 tracce, non ve ne pentirete. Keep On Going, cercatelo, ascoltatelo. Sono le 20.06. Noi stiamo per lasciare i microfoni di Radio Onda Rossa a Note Cose Città, che seguono. Poi se ci sarà Semilla alle 21.30 e poi More Fire con il reggae, per l'appunto, yeah. alle 23. Sul quale si sintonizzerà anche Ellie Cottino, che ovvio. Ringraziamo di essere stata qui in studio con noi in una, diciamo, coda di questo weekend passato qui a Roma, e a festeggiare anche Radio Onda Rossa. Noi ti ringraziamo proprio della tua bella energia, del tuo entusiasmo, del tuo modo di stare sul palco ma anche fuori dal palco, che è tanta roba. Grazie a voi, è stato bellissimo tutto. Non cambiare, continua così. Ricordatevi che Radio Onda Rossa vi potete abbonare, potete supportare questa radio andando su ondarossa.info, cliccando sul banner che è proprio lì in cima alla pagina, e dare appunto il vostro contributo perché questa radio e questa voce continuino a trasmettere. Sì, perché sapete che non abbiamo pubblicità, non ci sono sponsor, non ci sono padroni, non ci sono padrini, ci siete voi che ci ascoltate. È partita la nostra sigla. L'ultima cosa che possiamo dire è, prima di iniziare l'Equise, abbiamo fatto una corrispondenza con il festival delle autoproduzioni Froce, cioè, qualsiasi fac che ci sarà il 31 maggio e il 1 giugno a Le Cagne Sciolte, via Ostiense 137B, spero di essermelo ricordato perché lo sto dicendo a memoria, voletemi bene. E basta, abbiamo detto tutto. Sì, ci vediamo là lì. Magari. Esatto. Ciao. Ciao. We jump when they say crisscross your legs, calling karma a bitch cause she made you beg. I'm just traveling, rolling, glowing. I looked at the mirror, caught the driver drooling. Damn, wait a minute, what the hell you doing? I got booty, but this ride ain't amusement. End of the date, now it's time for the bill. Pockets full of cash and looks that kill. Girl, I'm sure you split that shit. Wait, did the waiter just ask him my pin? Okay, with my girlfriend.